Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Jules Légime di Henri-Pierre Rocher, edizione Gallimard, 1953, traduzione di Ena Marchi. Una sera dopo cena, Jim ebbe la malaugurata idea di lasciar salire Kate da sola in camera e finì di consultare in sala da pranzo un bollettino di borsa. Lui e Kate, coi loro 4 soldi, avevano rischiato una piccola speculazione che sembrava andar bene. Bisognava rivendere subito o no? Raggiunse Kate, che credeva di trovare a letto. Lei era vestita, incipriata e pronta a uscire. Aveva uno sguardo insieme duro e sorridente. Chiese a Jim se avesse voglia di accompagnarla, giusto per la forma, dato che lui aveva l'influenza. Sarebbe stata fuori una mezz'ora. Dopo un'ora, Jim aveva finito i suoi calcoli. Ebbe un presentimento. Kate era scivolata via come un'anguilla. Dopo 2 ore fu molto preoccupato. Dopo 3 ore fu convinto che era andata a commettere l'irreparabile, come diceva lei. Allora Jim affrontò la piramide del loro amore e pietra per pietra cominciò a demolirla. Il racconto di quella notte, che annotò nel suo diario poco tempo dopo, riempì parecchie pagine. Aveva la febbre, gli fischiavano le orecchie. Non poteva in quello stato correre dietro a Kate e neppure voleva. Kate non ammetteva la malattia e adesso toccava a lui essere malato. Kate gli lasciò tutto il tempo di pensare, che ritornò tutta un sorriso solo alle 2 del mattino. Aveva fatto una gran partita a carte con il pugile e i suoi amici. A Jim venne l'idea di picchiarla, ma non ne ebbe né la forza né la convinzione. Aveva voglia di scappare. Disse a Kate il suo timore che si lasciasse influenzare dal pugile. «Gli ho raccontato la nostra disgrazia», Jim trasalì. «Mi ha proposto di farmi un figlio a tua insaputa». Jim udì questo con orrore. «Ma io ne aspetto uno da te». Disse queste parole alzando gli occhi su di lui e lui le credette. Si avvicinava la fine di novembre. Il matrimonio era bloccato. Mancava sempre qualche nuovo documento alla pratica. Ma ne avevano ancora voglia. Cadeva la neve. L'albergo era mal riscaldato. Entrambi desideravano la loro home, ma non la stessa. Aspettavano ancora una volta di sapere se il bambino era stato loro accordato. Lui sì che avrebbe rimesso subito tutto a posto. 2 giorni dopo, fu di nuovo sicuro che Kate non era incinta. Jules le scriveva chiedendole di andare a casa di sua madre nella capitale. Jim non sapeva niente di quel che lei aveva potuto scrivere a Jules. Jim, malato, sentì il bisogno di essere curato dalla sua, di madre, nel suo letto di ragazzo. Decisero, senza stabilire niente per l'avvenire, di tornare ognuno a casa propria. Venuto il momento, con le valigie già alla stazione, Kate posticipò di un giorno la sua partenza e portò Jim a fare attraverso i campi dove la neve fondeva una lunga passeggiata, indimenticabile quanto l'altra che era stata il preludio al loro amore. Questa volta però Kate non parlò che di Jim e gli rivolse a sangue freddo tutti i rimproveri che aveva accumulato. Gli presentò un Jim egoista, avaro, eccessivamente prudente. C'era del vero, pensò Jim, e anche delle accuse di lesa maestà prive di fondamento. L'atto di accusa era nel suo insieme un modello di chiarezza e di costruzione. Quando arrivò a quell'ultimo mese passato nella cittadina, Kate non riuscì a dominarsi e la sua indignazione esplose, in particolare a proposito della fiacchezza di Jim nelle formalità per il matrimonio, il che sorprese Jim, che trovava la sua pratica più completa di quella di Kate. In conclusione, Kate si sentiva presa in giro. Per il momento aveva soltanto voglia di ritrovare le tenere e generose premure di Jules. Jim avrebbe avuto parecchie cose da rispondere, ma preferiva riflettere. E dato che non era capace di darle un figlio, aveva torto. Dormirono quell'ultima notte in un piccolissimo albergo vicino alla stazione, in un letto stretto e duro. Non parlavano più. Si presero ancora una volta, senza sapere perché. Per mettere un punto fermo, forse. Fu come un funerale, o come se fossero già morti. Jim ebbe per la prima volta lo spettacolo di una Kate immobile, fredda, e le si diede a malincuore. Jim accompagnò Kate al treno. Non agitarono i fazzoletti. Jim era felice che lei andasse verso Jules, se almeno quel loro fallimento l'avesse riportata a Jules. Kate se ne va. Lui non ha saputo tenerla. Non vuole neanche più tenerla. È finita. Jim è solo. Gli sembra di essersi tolto una pietra dal petto. Respira liberamente. in fondo al polmone una fitta acuta. Kate avrebbe voluto trovare in lui, oltre alle sue, le qualità di Jules e altre ancora. Lui avrebbe desiderato in lei la sicurezza e la tranquillità di Lucie. Non erano ragionevoli. Fino in fondo. Rottura. Jim tornò, malato, a Parigi, a casa di sua madre. Si coricò nel suo letto di ragazzo, dove rimase per 3 settimane con febbre e dolori nelle ossa. La piccola macchia ai polmoni andava scomparendo. Si alzò, uscì ed ebbe una ricaduta di 1 mese. Il suo medico intelligentemente gli chiese della sua vita durante quell'anno in cui non l'aveva visto. Jim raccontò per sommi capi. A parte le ultime settimane non si era mai sentito così bene. Il medico gli disse: «Siete molto esaurito. Avete vissuto a tutti i livelli in un'euforia eccessiva. Le vostre cellule fanno sciopero e vi impongono un completo riposo. Per un po' di tempo sarete alla mercé di una corrente d'aria o di una contrarietà». Visti dal suo letto di ammalato, gli ultimi 8 mesi gli sembravano colmi di gioie, ma anche di sforzi estenuanti. La tregua con Kate era una necessità. Aveva scritto chiedendo notizie di Kate e di Jules. Lei gli rispose con una lettera breve, tessendo le lodi della tenerezza di Jules. Una frase sola sembrava lasciare una porta aperta sull'ignoto. Jules, dal canto suo, rispose con discrezione, non voleva influenzarli. Non sapeva se fra Kate e Jim fosse in corso un nuovo bisticcio o una rottura. Jim si chiese se Kate e Jules avessero ripreso la loro vita coniugale. Se lo augurò per Jules. E Kate rivedeva Albert o Harold o un altro? Pensò di sì. Nello stato in cui era, sentiva come una protezione qualunque barriera fra lui e Kate. Arrivò l'inverno. Ricevette un biglietto di Kate, incredibile. Credo di essere incinta, vieni. Ma di chi? Si disse Jim. Era il momento della sua ricaduta. Lui era a letto, incapace di alzarsi. Lo scrisse a Kate e non aveva neanche voglia di andare da lei, incinta probabilmente di un altro, che non era stato certo quel loro povero ultimo addio a poter fare quel che la loro fiamma non era riuscita a fare. Jules scrisse, poche parole, che Kate voleva vederlo e non credeva alla sua malattia. Jim ne fu irritato. Kate si figurava che fossero tutti come lei. Le scrisse dei suoi dubbi circa la paternità del bambino, ammesso che davvero lei ne portasse uno, fondati sul loro passato, sulla storia del pugile e sulla prima lettera di Kate dopo la separazione. Il destino bussava alla porta. Toc, toc, toc, toc. Ebbero un dialogo di sordi. Le loro lettere ci mettevano 3 giorni ad arrivare. Jim aveva appena impostato la sua lettera di dubbi che ne ricevette una di Kate con una vera luce. Parole di una giovane donna la quale, finalmente feconda, rendeva grazie a Dio e assicurava a Jim che, per se stessa, per la sua propria certezza, per la sua vita futura con il bambino, si era data solo a Jim. Ancora più di quel che diceva, la maniera innocente e senza difese in cui lo diceva sconvolsero Jim. La vide come un agnello, le scrisse e si preparò a partire appena fosse riuscito a stare in piedi. Nel frattempo Kate ricevette la dura lettera di dubbi e credette che fosse la risposta di Jim alla sua dolce lettera. Ne fu devastata, tornò alla sua collera e lo punse come una vespa in una lettera di rottura. L'aveva appena impostata che ricevette la soave lettera di un Jim convinto che annunciava il suo arrivo. Credette per la prima volta alla sua malattia ed ebbe pietà di lui. Ma Jim aveva ricevuto la sua violenta lettera di rottura e le rispose confermando quella rottura. Barra dritta, tutta! Barra sinistra, tutta! Così governavano a grandi colpi le loro barche, fin quando le penne non cadessero loro di mano, come megafoni inutili, sopraffatti dallo strepito della tempesta. Si erano promessi un tempo di non telefonarsi mai più, che non avrebbero sopportato di sentire le loro voci senza potersi toccare. Chi di spada ferisce, di spada perisce. Loro si erano dati e ancora si davano dei gran colpi di spada. Ma chi regala sorrisi graziosi è salvato da sorrisi graziosi. E loro si erano regalati e ancora si regalavano dei sorrisi graziosi. Un giorno Jim, ancora a letto, ci restò tutto l'inverno, senza febbre, quel giorno, appoggiato ai guanciali, pensava a Kate, futura mamma. Una volta in un negozio, lei aveva imitato per scherzo l'andatura che avrebbe avuto con la pancia. Un'altra volta aveva abbozzato su una tela una testa di bambino dai biondi riccioli arruffati. Immaginò Kate col loro figlio in braccio e gli si riempirono gli occhi di lacrime. Capì appena i discorsi di amici venuti a trovarlo, rispose in modo incoerente. Quelli se ne andarono preoccupati per lui, lasciandolo solo con la visione della sua donna e del loro bambino. In un momento nero, Kate scrisse: «Vieni subito, forse troverai ancora il bambino». Quel forse era una minaccia. Comunque gli tolse quel po' di forze che aveva. Non poteva imbarcarsi su un forse. Funzionavano a intermittenza. A un certo punto si parlò della possibilità che Kate venisse a stare da lui a Parigi, ma sua madre, al corrente di tutto, non ammetteva il loro modo di vivere e non ne faceva mistero. Jim temette quell'incontro. Kate sarebbe stata ferita profondamente. Le parlò di un albergo vicino per i primi giorni a Parigi. Lei la prese molto male. Corsero il rischio di incrociarsi per strada. Jules si offriva di risposare Kate e di allevare il bambino. «Ah», pensava Jim, «è bello voler riscoprire le leggi umane, ma come deve essere comodo attenersi alle regole esistenti?» Affaticata da quell'alternarsi di cielo e di inferno ancor prima della sua nascita, la creaturina si spense a un terzo della sua vita prenatale. L'annuncio fu dato a Jim con un biglietto di Jules e Kate desiderava ormai che tra loro fosse silenzio. Così, loro due non avevano creato niente. Jim rimaneva perplesso di fronte a quella fecondazione improvvisa e chiese al suo medico, che gli disse: «Può succedere che una coppia ben assortita e innamorata non abbia figli per un lungo periodo e che ne abbia uno inaspettatamente se, per una qualunque circostanza, un litigio, mettiamo, la donna è rimasta per una volta fredda». L'ultima notte. Per Jim fu un lampo. Per la prima volta credette fino in fondo a Kate. Pensò: «Abbiamo giocato con le sorgenti della vita. Ne abbiamo fatto armi da guerra. La vita ci rende sterili e ci travolge nel suo flutto». Avrebbe conosciuto certi dettagli se Jules un giorno avesse voluto parlarne. Si convinse un po' alla volta che tutto quel male sarebbe stato evitato se lui e Kate fossero appartenuti alla stessa razza e alla stessa religione. Non si parlavano in fondo che per traduzione. Le parole non avevano esattamente lo stesso significato per l'uno e per l'altro, e neanche i gesti. Nei momenti di maggior smarrimento, quando il loro amore scricchiolava, non avevano più una base comune. Le loro nozioni di ordine, di autorità, del ruolo dell'uomo e della donna erano diverse. Erano stati temerari. Avevano voluto gettare un ponte. Avevano fatto bene, ma avevano conservato ciascuno il suo orgoglio. Non erano stati degli apostoli. Forse il loro figlio lo sarebbe stato. Kate e Jules, neanche loro, erano della stessa razza. Kate era una germanica pura, una pollastra da combattimento. Jules era un ebreo che, tranne pochi grandi amici, evitava in genere gli ebrei. Passarono 6 mesi. Jim aveva ritrovato le forze. Ricominciò a lavorare nella sua Parigi. In giugno, Jules gli fece sapere che si era risposato con Kate. Così la loro famiglia non si sgretolava. Kate restava con Jules, lontano da Albert. Jim inviò loro i suoi auguri. In agosto gli capitò un'occasione di andare nella capitale del loro paese, dove adesso vivevano. Scrisse a Jules chiedendogli se avrebbe potuto vederlo. Jules rispose di sì, ma che Kate preferiva non incontrarlo. Jim trovò questo normale. Valentina Carnelutti ha letto Jules et Jim di Henri-Pierre Rocher, edizione Gallimard 1953, traduzione di Ena Marchi, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio,